Ci è capitata pure a noi una volta che il collega era qui a lavorare fino a tardi, sta parlando verso le 8 e 8 e un quarto, che io me ne ero andato via un po' prima, che avevo da fare. E dopo una mezz'oretta mi telefona, mi dice: "Guarda, wow, è successo un problema qua, che è arrivata la polizia." Io lo chiedo: "Cos'è successo?" E mi racconta: "Guardi, ero lì dentro a prendere la bicicletta che sto per chiudere. Ed è entrato non lo so, era algeriano, non so di dove era, ma prende il telefono, cerca di scappare. Il capo si sente, cioè il collega si sente il rumore della porta, esce fuori, vede che questo qua prende il telefono e esce di corsa. Ma per beccarlo, questo qua corre dietro e ce la fa prenderlo. Glielo prende, porta dentro, glielo fa sedere. E niente, non aveva minimo attenzione di chiamare la polizia, perché si vedeva che era una persona che moriva di fame, ecco, in poche parole. Però c'è il signore davanti, che è un fruttivendolo, ha chiamato i carabinieri. E niente, lui poverino stava dicendo: "Guardi, do il telefono, me ne vado." Non parlava né italiano, parlava francese, inglese e le altre lingue. E niente, poi alla fine arrivati i carabinieri, sono entrati lì dentro, tutte le dichiarazioni, cosa è fatto, cosa è successo. E in quel tempo sono arrivato pure io e ci hanno chiesto: "Chi è questo ragazzo?" E dice che è il collega che lavora con me, che parla bene l'italiano. E niente, diciamo, era uno che, diciamo, mi è rimasto nella testa da quel tempo. Poi, diciamo, sono successi dei problemi, ci ha ridato indietro il telefono, però moriva di fame. Ho chiesto se magari io lo potevo dare qualcosa da mangiare, ma i carabinieri mi hanno detto: "Guardi, no, si può dare, comunque adesso lo prendiamo e lo portiamo con noi e gli diamo magari se ha fame, ecco." Questa cosa mi aveva colpito un po', che non è mai successa una cosa simile, soprattutto con noi, perché noi siamo magari ragazzi giovani che lavoriamo qua e nessuno c'ha attenzione di provarci con noi, però in zona ci sono stati anche altri furti, che non mi è piaciuto sta cosa. Comunque bisogna dare massima sicurezza in questo quartiere, perché è un quartiere veramente molto importante di Bologna. Quello che vedevo io, se il signore non chiamava la polizia o i carabinieri, io lo prendevamo, come avevo fatto ovviamente, e io lo potevo chiedere in qualsiasi maniera, in qualsiasi lingua, tanto diciamo un po' si poteva chiedere. Tanto ridava il telefono e diceva che: "Guardi, ha fame, non conosce nessuno, non ha i soldi." Lo potevamo dare da mangiare, a dare una mano, magari quella persona da quel nostro gesto si poteva colpirsi, capito? A cambiarsi la mentalità: "Guardi, ci sono altri modi per vivere, invece che andare a sfruttare le persone, rubare le cose in giro." Poteva chiedere aiuto a qualcuno, che poi qua, guarda, gente meravigliosa, ovviamente non tutti uguali, però diciamo, se non chiamavamo la polizia, anzi chiamava lui, potevamo far cambiare un attimo la situazione.